through! Hey, cosa stai facendo? Non mi tossi! Uffo! Ehi, you! Che fai facendo, c'è? Sto guardando quel programma, Geo e Geo! A Rai 3! Ehi, come sta accendendo a 3? C'era l'isola di San Pietro, beh, due bei posti, proprio bello vivere lì, una riusca, polpo, di tutto vengo su mare. È vero. E allora, che è? Chido ha fatto vedere col cestino, ha pettigato tre aragoste, un granchione, un altro pesce umano, e la zurrata se l'ha fatta. Ma dove? In? L'isola di San Pietro. E adesso ho tipo con la barba bianca. Ehi, mica, c'hanno il pesce. Questo è adesso, no, il documentario è terminato adesso, adesso sta facendo vedere questo. Seppia. Ehi, no, ma i documentari che fanno vedere già sono visti. E... ogni sera c'è questo, alle 13. Ho capito, anche la zombie, sono le 5 e un quarto. Ehi, oggi è schizzo, le 5 e un quarto sono. Ehi, spera di dare mano, la rimane era meglio la giornata, oggi è pure più freddo. Sì, è vero. Mangiando, sai, mi ha diviso un caffè e mezza fetta di pan d'oro, da. No, io mi... un budino mi sono mangiato. Il budino? Già è buono. No, Paoletta lo fa ogni tanto il budino. Lo fa Paoletta. Che abbiamo fatto noi qua? Aspetta, metto... aspetta che metto il budino. Sì, vai, vai. Buonasera, grazie, tutto a posto. Questa è la mia paella. Biosa. Vabbè, che faceva un'altra oretta, ma non stare all'ultimo, l'ho messo. Ah, io l'ho messo poco fa, tra un'oretta e una quarta. Pure a tre, non è che sia... Anche la mia è a tre adesso. Ieri eravamo in campagna, in soggiorno c'era la stufa a pelle. E invece cucina la stufa a legna, però scalda di la stufa a legna, c'è un abisso, guarda. Ma quelle stufe così vanno bene in campagna, dentro casa non va bene, a meno che non abiti a pian terreno e c'è il cortile dove mettere la legna. Sì, ma infatti va bene in campagna, è una cucina praticamente, una cucina a legna. Lo so, ce l'ha avuta in campagna, quella cucina a legna, da qui dovremmo lampada dopo tanti anni, però già ce l'avevamo. No, questa ce l'ha qualche anno, ma se la vede nuova, tenuta bene, capito, ogni tanto cambi i tubi, quando ci rompono un fiume. Ma già sono buone, sono comode perché ti risparmi gas, specialmente in inverno, che accendi per scaldarti. E approfitti e cucini anche da lì con quella. Ciao Graziano e Luca, come state? Sono Vittorio, buonasera. Ciao Vittorio, buonasera, ben sentito. Vai Luca. Luca, non hai sentito a Vittorio? No, negativo. Sono svegliato poco fa, là. Alle 4, un quarto. No, ha salutato adesso, ti ha salutato. Ah, boh, ciao Vittù. Ciao, ciao Lu, come stai? Tutto bene, tu in giro. La Rusa Lesiani gioco. Con questa pioggia, via da te. Sì, via da me, io sono qui dentro, non so come ti nutano. Ma per freddo, ci non è di saffura, no? La bella bacchetta, non è che tu come di qualche cosa. Ah, vabbè allora. Forse c'è una persona che è così, lui ti ascolto, sì, lì, come ti chiami? Chi è? Lo conosco, buh. Come? Non ho capito, sono? No, Ma il comune lo conosco da tantissimi anni, però non vado da lui. Non faccio palestra io. Ma come fa a dire che sono io se non mi conosci nemmeno? Ma non abito a Pisa, io abito al monte. Cosa? Non ti sento, arrivi male. Prende anche dal monte la tua apparecchiatura. Ah, adesso sono qua a Santa Maria di Pisa. Però al monte, boh, dipende. Lui c'ha l'apparecchio, non è che sia una club professionale, c'ha quelli a giocato, ci devo pure io quelli che c'ha Alessio. Già vanno bene, non molto lontano, ma già vanno bene. Allora, purtroppo, questa frequenza qua, se trova un ostacolo, sei fregato, tipo un palazzo, sei buttito, non bravai, quelli di Alessio devi... Cioè, ci sono molti palazzi che occupano la linea, non riceve bene. No, non è che occupano la linea, la interrompono, che è diverso. Vabbè, chi ci vuole sempre la matrice cosa, vabbè. Infatti io per quello già... Gli ho sempre detto di metterci sempre vicino all'antenna perché prende bene. No, ma matrice cosa è femmina e femmina. Vero, grazie. Lu, adesso mi faccio l'aerosol, poi quando ho finito ti rientro. Mi rientri, va bene. Beh, è sempre meglio di nulla. Adesso me lo preparo e poi rientro, che me lo devo fare. Tu dai il socio. E tu la chiama, ora ti rivedi. Ebbene, ho parlato di... Sono arrivato, non ho parlato di nessuno. E beh, caduto sì. Ah, sono caduto, sono qua. Ho già lo cioccolato, grazie. Di quelli buoni, no? Ehi, no, io mi sto preparando. Le dolci. Con la siringa. Allora. Vediamo qua. 35 cc. Ma sempre devo essere drogati. E per prendere l'acqua dalla bottiglietta devo usare la siringa. Così tanto ne metti 35, è troppo me. No, che poi devo mettere 15 gocce broncovalle. Poi devo mettere un flaconcino di quelli di plastica di Cleni e aerosol, bel clomentazone di proponato. Ah, ho capito. Si trattano quelli cc di tu si che vales, quelli lì. L'acqua devo mettere, che si chiama Eurospital Soio Cloroso. Il sodio. Quello è assolutamente fisiologica. Invece quello là ancora è Clenil. La fa bene, dai. Vedi che sono guarito io. Ciao. Anche risparmiato soldi. E perché? E come? Clenil e basta. Invece soluzione lo metto di non metterne. Una di Clenil, due volte al giorno. Io la soluzione la devo mettere. Se no rimane troppo collosa la medicina, capito? Allora ci vuole la soluzione che te la diluisce un po' e la respiri bene, capito? Con la macchinetta. Invece se faccio solo quel flaconcino così, rimane troppo pazzoso, capito? Ah, ci vuole più cosa, capito? Vabbè. E per quanto lo devi fare questo? Devo mettere 35 di acqua con la siringa, acqua fisiologica. una fialetta di quelle Clenil e 15 gocce di Bronco Valle. Mi sciucco l'immovo e mi schiotto bene tutto e poi me lo assicuro. E vabbè, fai la cosa, la mascherina ti metti. Ehi, mi metto la mascherina e parlo, e aspiti, no, e esce il vapore acqua. Ehi! Era un giramento di palle, tu, mi so qui hai tutto. Fallo, Fidini. Vabbè, io mi faccio un po' di partite a videogiochi, grazie, adesso sono qua, dai. E intanto mi sto prendendo l'acqua fisiologica e poi parto. Appena ho finito già ti chiamo. Ok, ciao Avvero, si parte. Stressando il naso a chi mi ruddappa. Sì, vabbè, fatto un fatto. Va, domani. L'ha visto tutto nebbia in Sardegna. Cos'è? Tutto nebbia, Bono, tutta quella zona lì, tutto nebbia, tutto imbiancato. E la salva. Barbagia, tutto mio, tutto neve, bello, però adesso ci vanno a coso, a che ci paesi che è vicino a Nuoro, normalmente non si chiama, a Pugni. Dove? A Pugni, a Sciare. Davvero? Allo Supramonte. Allora, va bene anche una cassetta di plastica, di quelle cassette dell'acqua. E cosa chi ha saputo a costruirti uno slittino? Beh, tu invece di legna ti fa uno slittino, è poco bombani. È vero. E allora, se no pigli un cofano di 500 e vai lo scivolo. Anche. È poco bella. L'altro dia ho visto due indigeni da un cubacione di bicicletta, già l'hai fatto, le volte già l'hai fatto, si hanno pigliato la misura di rubini, ha segnato il cubacione, l'ha tagliato, l'ha fatto quattro buchi e si è posto un cannaito, fatte le volte, e c'era un bel copertone ancora. Noi quando eravamo piccolini, aveva la moto il califone anche modificato, no? Leggevamo una corda alla moto, una cassetta di quella dell'acqua e ci facevamo tirare in moto. Cosa gli togli? Quello l'ho fatto anche io da ragazzino, rotti dolci. E ti divertivi con poco, ti divertivi un sacco, adesso non ti diverti con niente. Ma va carità. Oh, Yava, si divertono i curi giringhi. E se non hanno una cosa che si già trattate e trattano essi. Una schifo. Allora, dove gli prima noi ci divertivamo alla nuvola, a Ruggiapo, attento che mi ne trovo vileni, che da appoggiato da rumore, che ti incinato, ti ricordi? Ah, al cavalluccio che ti sedevi sopra un altro, facevi le squadre e giocavi a Ruggiapo al cavalluccio, mi stava tanto vicino in terra. Già lo so, già è vero. Con i tappini delle bottiglie, della birra, dell'acqua minerale, ti ricordi i tappi? Li schiacciavamo, facevamo i piattini, poi ne mettevi una appoggiata al muro a scommesse, uno di vasi di piattini, a chi se ne gettava un piattino in un muro, ti pigliava i piattini che venivano tutti in terra e più la scommessa di Redina. Sì, sì, me lo ricordo, e a voi già. Con le figurine a buffo, i rapidi figurini ti pigliavi che si stigliavano e più la scommessa che avevi scommesso tu e anche gli altri che erano lì a guardare, che scommettevano su di te o su di me. Chi c'erano i yuki, no chi si diava, per carità, non ne ho più visto io. O se no a Balloci, o ci dovevi avviare i vostri bucati, passavate e fare a Balloci, se ci rientrava dritta la volta. È vero, già mi ricordo, vecchi tempi. Io mi divertivo, unità fin soprattutto, cavolo. E anche io, a voglia ci ho giocato, e ci divertivamo. O se no, un curcione lì ad Allai, per farci l'altalena. Anche lì al viale latte dolce, ma ci divertivamo, non come adesso. Chi si bisogna in carriera, a meno che non sono piccoli piccoli che giocano così, sino che si ammanniti sono già pisenne, a faccia e a fuma. Ti dico, anche l'altalena sull'albero, la casa sull'albero, la voglia. Un canale lì ad all'epolo e ti dondolavi da voi. Lì al viale è latte dolce e non ce l'avevamo la casetta sull'albero vicino proprio all'inizio del latte dolce del viale là, in quel pezzo rialzato lì su nell'albero ci avevamo la casetta fatta bene tutta di mascelli di cantieri, ne abbiamo imbigliati da Santa Maria di Pisa, che erano venni Santa Maria di Pisa sopra, però non qua, ma quello di su. Già ricordo a voi già vecchi tempi. E se no cerchione, con il ferro cerchione ti facevi là il gioco con copertone, ma con cerchione era meglio, faceva casino. Oppure la molletta e la carta da gioco nella bicicletta nei raggi a fare il motore. Ma sì, ma no, adesso ci hanno tutto. E allora, e ci divertiamo, perlomeno io mi sono divertito così. Non ho più visto, e l'ho fatto anche io, no? La carta nella bicicletta, e faria, paria, in moto, paria. Ma faceva di più casino la bottiglia, prendiamo un pezzo di bottiglia di plastica, metti qua, faceva più casino. Ma era bello lo zocco, quando pedalavi piano faceva sembrava la marmita della Vespa. Vecchi tempi, grazie. E già non ho visto più già per le cose del genere, per carità. Chi si diava già sono pupazzi di giovani uccidi, non va rinunciato, tutti bucarotti, nessuno che si dia da fare qualcosa, niente. Già mi ricordo, grazie. Non so se tu l'hai mai fatto, grazie, quando dovessi via maschera, per farti la faccia nera, come facevi? Dal tubo dello scarico delle marmitte delle macchine parcheggiate. Anche, oppure dall'usuario, lo bruciavi, Jessica, che ricordi. Ne abbiamo combinato un bel... Una volta mi avevo creato dal pezzo del manubrio della bicicletta, proprio il pezzo che va a inserire nella forcella, no? Quel pezzettino lì, di una graziella messaliera, non mi ricordo. Riempito a terra, con la terra quella per piantare. quasi pieno, poi messo il bombettone e messo il bullone delle, quello per stringere il manubrio, e sai che diventava una pistola, sparavami, infatti lo puntevamo in un portone, in un portone della cabina elettrica. Ehi, ma arrivamo in greppa, a voi un periodo era un periodo tutti in bicicletta, sia maschi che femmine, tutti anche abbiamo raccattato biciclette vecchi, una sistematina e tutta la greppa in bicicletta, e ci divertivamo, salivamo anche a Sassari in città, con biciclette senza freni, per carità. E beh, cercavi sempre di migliorarla, buscare la dinamo, di chi vi via Pasquale, vedi chi su, che costava le biciclette, e andiamo a comprare a pezzi, dinamo, i faretti. Sì, ahia, grazie, già mi ricordo, e vabbè. E se no vuol dire elastico, ma a criba lampioni, via. Secondo te era una cosa giusta da fare. Vabbè. Ma non diciamo più, ma rifasci, ma rifasciati. Noi giocavamo a pallone, giocavamo con l'altalena, con la corda, paradiso, ma mica rompevamo le cose. Sì, allora scommettere le colombe, no, io no, Marco era bravo, un amico, le sirighette, ribidiso i passeri, cardellini, cos'è, ma mischiare. Quelli erano periodi bellissimi. Ehi, quello sì, ma no, lampioni noi non avevamo mai passato, e mica eravamo insieme, non si da qui la notte non si vedeva nulla. No, ma prendere gli uccelli così nel viale col tiralastico. Ah, se vedi ancora lo tiralastico con la borcella, è un caraccio lì, mi ringrazio. Avevo cambiato le fette quadrate, gli ho messo quelle rotonde. E ce l'ho lì la forcella, nel cassetto. E già funziona sempre, l'ho provata a me, sarà un paio di mesi fa, dai nonchi. E già funziona sempre. Grazie, adesso ci hanno tutto, dai, la verità. PlayStation, telefono di ultima generazione, tutto queste cose. Io mi ricordo, il primo periodo, no? Io mi ricordo il primo periodo, grazie, che mio fratello si aveva messo il baracchino a casa anche. Cioè, va anche motocarro, che mi mette che andavo in camera, però lui non voleva toccarlo, non voleva per nessuna ragione. E purtroppo mi sgamava sempre perché come toccava l'alimentatore e lo sentiva a caldo si incazzava. Poi mi ricordo il periodo bellissimo, e infatti tutti in tavola, non riusciva, pum, mi metteva a parlare con Claudio, con gli altri. In casa da mia madre c'era lo stesso, era di mio fratello, però sì, qualche volta mi ha fatto qua vita, non è che mi piace assai, ma lui, mio fratello, già ci parlava spesso, si chiamava Matra. Vabbè, ma io ho iniziato, poi ho deciso di mettermi il baracchino per i fatti miei, mi sono fatto la concessione, tutto quanto, antenna sul tetto. Solo che gli ho cucinato un poco, che me ne tagliavo nel capo, mi disturbavo. Tu conta, su, sono quattro, su 20 famiglie disturbavo solo a uno e basta. Poi cioè, il problema non era mio, se disturbavo a tutti, se disturbavo solo a questo qua, il motivo, il problema non era mio, ma era suo, vabbè. Allora, per non bisticciare, avevo staccato tutto, avevo venduto tutto a Piero Drago. E con questo lì mi avevo comprato la moto, sì. Magari non era l'antenna sua e tu ne hai tirato tutto. Se non disturbavi all'altro, solo a Edo, vuol dire dipendeva da Edo. No, in casa da babbo no, non ha mai disturbato, l'antenna era sopra il tetto. Grazie, mi devo sentare un quarto d'ora, là, 20 minuti. Ci sei dopo, sì. Già sono qua, va, tranquillo. Che è? Poi. Dommi. Ehi! Mommi. Abita sei! Giù! Tutto! A cui dire cotto! Ciucu! Buongiorno Ciucu! Meno male, è ora di sentirti! Ciao Antonio! Ciao, grazie. Beh, adesso mi senti sì perché l'ho sistemato. Ho messo nella giusta frequenza. L'altro giorno ero spostato lì 5 kHz. Già me l'hanno detto che è tutto messo male, fuori frequenza. Adesso già sono centrato, non ti preoccupare. Bene, mi senti? Adesso già ti sento bene. C'è Luca che si è assentato, già rientra subito. Poi ci dovrebbe essere Gio Maria. Avanti Gio Maria, ci segue, c'è Antonello. Gio Maria si è preso. Sarà incollata la TV. Ah, boh, senz'altro. E Luca che fine ha fatto? I pari due. E chi? Luca. Non so cosa doveva fare. Ma già dentro subito. Sì, già entrerà magari dopo, là. Senz'altro. Ehi, e beh, e allora, cosa mi racconti di bello? Bla bla. Sì, niente, cosa vuoi che ti racconto di bello? Sto usando un apparecchio grande con l'antenna esterna, posso usare il portatile, perché con quello non mi sentivi. Gli altri giorni ho Baofeng, quindi a un certo punto ho riagganciato il grande e già vedo che mi senti bene. E io sto usando il gommino con quello portatile, il piccolo. Sono in cucina e l'antenna è verso, ce l'ho sopra il tavolo rovesciato, verso Monteoro e orientato. Ho capito, no, io sono orientato al monte dove lo avete oggi, capito? L'ho orientata lì l'antenna. Ma con questo, secondo dove mi sposto, non ti sento. Per esempio, se lo oriento verso Porto Torres, non ti sento, ti sento tutta a tratti. Ho capito, ho capito. Quindi in pratica lo intende se usi l'altro. Lei se a me mi senti invece? Spostalo col gommino, con l'antenna. Oh, potenza di questi portatili, una cosa fantastica. Già lo sai chi sono, giallo? Aspetta, grazie, che ho capito. Cosa hai detto? Che ho sentito niente. Se l'ha mutato a Graziano. Graziano lo sentivo, e vabbè col portatilino non è che imbatta più di tanto. Dai, ciao Marco, sono ciao anche a Graziano, a chiunque qua in ascolto. Adesso stavo provando questo di quei portatili cinesi, ma sembra che funzioni bene. Mi senti bene? È una cosa che ti sento bene, sono bellissimo i portatili cinesi, già lo sai. Pensate che Baofeng, sono gli Uiguri, per quello che costano, convengono che? Beh, lo sai che quando li abbiamo comprati, avevo comprato il primo anni fa, erano appena usciti e c'era un'offerta, adesso non vorrei dire una fesseria, ma mi pare erano 19, o 19 euro o 22 euro, 23 euro, insomma non arrivava a 25 euro mi pare, compresa le spese di pensione dalla Cina. Io ho detto no, che non arrivi nulla, ho detto non è possibile, cioè sono le spese, ci vorrà più del doppio. Beh, mica è arrivato e funzionava bene, l'ho tenuto per un po' e poi l'avevo regalato e niente, adesso ce n'è un altro. Sono un bombo, veramente, cicafusi, ma funzionano bene. Io ne ho avuto 4, già te l'ho detto quando sono venuto qua a casa. Io tutto li ho venduti una settimana fa, li ho venduti e ho comprati poi anche l'altro che avevo comprati da un cinese, poi non ha più svelato, figurati tu, poi per impostarlo ho dovuto andare a casa di Marco, dargli a lui e fammi mettere 8 canali LPD e 8 PMR mi ho messo. Ma funzionava come un treno, funzionava. Mi sono tenuto solamente i cosi, i 5, l'V5 Plus 2 per fare antenne e basta, non per altro. Poi per il resto già ho. E ce ne ho parecchia voglia. Sto usando adesso lo Yais, l'ho ripiazzato e già esce bene. Graziano non lo sento però. Sì, no, il modello che avevi tu, che mi hai fatto vedere, quello lì era il modello dopo. Io avevo il modello ancora prima, quello più vecchio, boh, che non era da 5, forse era da 3 watt e mezzo, mi pare. Ma andava bene lo stesso, esteticamente cioè, era simile a quello lì. Poi l'ho dato e adesso quest'altro invece è diverso da quella forma di quel tipo che hai tu, che poi l'hanno fatto anche camouflage, hanno fatto giallo, poi l'hanno fatto hanno aumentato la potenza, eccetera, eccetera. Ma funzionano bene. Va bene, dai, vai, entra a fare la spesa per la cena, dai. Ci sentiamo, quello a fare tutto a posto, tutto bene, finisce lì. Dai, ok. E sono contento che sei contento di quell'affare, almeno ti ripeto un pochettino. Allora, già aveva parecchi a voglia, già li avevi visti. Era peccato lasciarlo, cioè, fermo. Non lo stavo quasi mai usando d'altronde, perché mi piccato non mi veniva meglio usare la 87, perché c'è molto più forte di radio, anche perché c'era quasi 40 watt con la 87, capito? Infatti quando uno deve abbassare la potenza e anche la radio, perché è talmente forte che con quel microfono che volevi tu amplificava che è un siluro. Poi se vado dentro a casa mi già te lo faccio sentire. Ciao, e dopo tanto sono finito presto oggi. Adesso vado a fare la spesa, poi passo a prendere le bambine e poi rientro. Ok, dai, ciao, buona serata. Ciao Graziano, salutamelo tu perché io non lo ricevo, non so se mi riceve anche lui, a chiunque qua in ascolto. Ciao ciao. E io, ciao Marco, ci sentiamo a dopo allora. Avanti, grazie. Ciao Marco, se mi copi, sono riuscito a copiarti un pezzettino tratteggiato, ma ti ho sentito. Ciao lo stesso. Ok, vai Antone. Grazie, sei stata grande nel senso, non sai come ti sento bene. Arrivi quasi in fotoscala qua, figurati. E che sei che nel tavolino, sì. Avanno i bisogni, devi scegliere un capo dell'antenna, andare al salone, pigliare la radio, pigliare l'alimentatore, no, ora mai già sta, tutto il resto sono settimane qua, no, adesso no, adesso uso questo, già lo sentivo già, ho spostato il punto e l'ho trovato, non lo so però se mi sentiva lui, capito? Non ti sentiva tutto un po' basso. Stavo andando a fare la spesa, quindi lui deve essere in alto, però non in pratica non ti sentiva, deve essere in zona 1 per senz'altro. Eia, vediamo se c'è Luca ci sei? Luca non c'è ancora, vediamo Gio Maria si è rientrato. Tutti assentati ci sono, Antonio. Tutti assentati, so. Ho visto che eri su Facebook, sta di scritto, l'hai visto? No, ho fatto solo la fotografia delle cose, del video della Cipital che basta. Ho mandato fino a mezzanotte ieri con quello, figurati, con il telefono, eravamo in quattro, eravamo. E chi c'era? C'era Franco Lassosso, c'ero io, Giuseppe Giovicino, quindi figurati tu, stavamo durando benissimo, la verità. Già lo so, già ce l'ho sempre io, lo accendo così qualche volta, la mattina quando sto facendo, ascoltare, accendo anche questo, ma io non intendo mai nessuno, e allora accendo quello, mentre faccio le cose, ascolto. Ehi capo, me ne sono scioccato normale, 14, capito? E moduliamo lì, moduliamo, quando non c'è nessuno di qui è 27, allora andiamo lì. Anche io l'altra volta ho fatto così e stavo chiacchierando con Luca Manicomio. Ehi, già esce bene. Qualsiasi posto sì con quel telefono lì, cioè con quell'applicazione. Arrivi in qualsiasi posto, sono belli per quello, so. Sì, con quello senti benissimo, è come che stai usando il telefono, che sia una telefonata, là. Non è di QRM, balle varie, capito? Sì, già lo so, infatti. Canta bene, va bene, mela. Siamo con la tua vita, è buona, sì. Guarda così, oppure... così che ho abbassato il pulsantino della, del coso. È meglio con questo, così come tono, o meglio con questo? No, è più pulita l'altra. Così, infatti che è più pulita, così è. Sì, sì, la tonalità della voce quando parli è limpida, è pulita, chi da rimane un po' guguffa. Perché c'ha due toni, capisci? C'è il tono, non ho neanche toccato niente, capito? È stato tutto così. Questo è un microfono normale. Adesso uno di questi giorni mi compro l'adattatore e ci infilo qualche microfono amplificato se va bene, se no pazienza se la piglia il Napoli, ho già utilizzato questo. Ma vai, usa quello lì, è abbastanza bella, pulita la voce, più chiara di quella, non esiste. E questa qui è bella pulita, quella è poco fa rimane cupa, questa qui lasciala così. Ma non te ne fare per amplificato, sei ci bene abbastanza benissimo così. Ah, meglio così, allora se mi senti con questo microfono lascio questo e va a far cuffia. Già va bene, già va bene. E allora, se ci vai a puttitini, cosa vuole per amplificato? Quando è pulita una radio, va bene lasciarla così com'è. Io per dire, e le altre radio, il microfono, se va bene quello che c'è, pure se ne ha, quello non mi... L'importante è che funzioni bene, che si senta bene la tonalità della voce, è pura. E anche se magari non è un microfono buono, di marca, l'importante è che funziona bene, che si intende bene, capito? L'importante è quello, e poi già sai, esci perfetto, è pulito, pulito. Meglio così, almeno non ho posto prima di niente. Andrà bene, poi c'ho io di roba. C'ho anche un portatilino delle 10.000 watt. Se c'è stato il canale LPD, ogni tanto già lo uso. Perché l'altro lo portate l'ho lasciato a mio fratello, così non lo usa giù, capito? Nel caso avesse bisogno di qualcosa, mi chiama, gli ripeti già le risposte. E invece è sempre comodo. Ma io una volta che una ragazza l'assessore che va bene quel microfono alla radio, non ne le ha dato altri, non me ne ha tutti nulla. Scusa, con questi 10 per questi, che mi rubate il bambino, ma stanno a me il capo, ma cosa, ui? Stampati tutto, io. Avanti, avanti, chi è? Il più forte di Sassari, buonasera a tutti e due. Ciao, ma chi? Ciao a tutti, ben sentito. Andato sei lì a dove ti ho detto io stamattina, a Cacca Cittamercato? No, non sono andato in quello lì non sono andato. Sono andato solo al primo. Non sapevo manco se si portava le volte, stavo mangiando semi di girasole, voleva un poco. E lì di solito già ci sono quei portati. Però te lo ordini che fai prima, tanto, non è che ci... ci voglia questo che anche in una settimana già c'è arriva. Nel caso dovesse essere caro. Io ricordo, se non mi ricordo male, voleva intorno ai 30 euro, 40, adesso mi ricordo. Però era una coppia, quindi. Di portati. Non ho guardato cosa costa la coppia, poi ci frugo a vedere un po' cosa costa. Avanti, dottor Graziano, buonasera. Ciao Bacchi, però alzati il volume un po', oppure avvicinatelo di più alla bocca. E guarda che ce n'era una coppia di portatili, di 30 euro mi sembra che stava vendendo. Tu compro e vendo nel telefonino, dai un'occhiata lì, ci dovrebbero essere ancora. E dopo grazie, non ho capito, spiegami un po'. Su, compro e vendo a Sassari nel telefonino, ti appare sopra quella... Io entro su Facebook, poi sopra esce il segnetto, no? Tocco quello e esce la lista di compra e vendo, della gente che vende cosa. capito. E ho visto lì c'era quel baracchino 60 euro, che adesso non so se c'è ancora. Poi ho visto una coppia di PMR, 30 euro le stava vendendo. Poi l'altro giorno pure ho visto ce n'era uno solo, 26 euro lo stavano vendendo, completo, PMR. E questo negozio dove lo trovi? Io metto Facebook, poi nel telefono sopra esce quella specie di cassetto. Tocco quello e esce la pagina compra e vendo di Sassari. Compra e vendo si chiama Sassari. E se no già aspetto, non fretta, non ne ho tanto. Capito? Avanti, andato bene. Ma anche a te sto arrivando basso. Ciao Bacchisio, scusa se ti interrompo. Se non sei iscritto a Facebook non ti fa entrare, lascialo dire a Graziano. E non ce l'avrà lui Facebook. Ah, ce l'hai Bacchi? Io che ce l'ho. Non lo so se mi fa entrare come dice. Ciao Luca, buonasera. Non lo so. Allora, quando è che posso ritirare quella roba lì? Ma chi? Ma quando vuoi? Quando vuoi? Se vuoi venire adesso, ti spiego dove sto. Se no, domani, non lo so, dimmi tu. Io domani, guarda, arrivo a casa verso mezzogiorno e mezza. Se poi ci vediamo lì a Balsana, te lo passo. Basta, domani a Balsana a mezzogiorno e mezzo. E così ci beviamo anche l'aperitivo. Sì, cioè non c'è problema. Comunque, domani, al limite, per sicurezza, vabbè, nel caso che c'ho problemi, io mi faccio dare il tuo numero da Graziano. Ehi, ehi, dai. Già ci sentiamo. Mi porto il PMR in tasca e dunque se non mi trovi, se non ti vedo, ti chiamo. Oppure chiamo. Viceversa, avanti dottor Graziano. Ehi, aspetta che sto guardando qua se c'è, te lo faccio sapere. Allora, ecco qua, fammi vedere. Panasonic EB GD90 serie GST, cos'è? Panasonic GD90, e cos'è un cellulare? O cos'è? Fare un cellulare, ma una radio, ma con l'antennino, una radio. E lascialo cantare, visto. Napoletano deve essere. Capio. Così, Antonio. Tu al band, è una radio. Allora, deve entrare su market. Lì c'è tutto. Tutto quello che vendono entra su market e non sbaglia. Comunque li ho visti anche io quelle radio lì. Capito. Ma Antonio non lo sento, Pomponio! Questo è il palazzone che è di Alghero, ma quel 90 euro. Sono palazzoni, sono vicini, quei siciliani sono, i fratelli siciliani. E beh, che non si può vendere 90 euro, chi c'è Macco? No, è Macco, è caciuto, Dice cosa, c'è palazzolo, sono palazzini, so. No, già li conosco, un paio di quei palazzoni li conosco, abito Alghero. Ehi, a saluta i nieti, non li ripiglia nessuno, è sorpreso. Poi c'è anche un computer completo, 100 euro, a me non mi interessa, c'è a vedere. Adesso guarda se trovo quelle altre radio. Sì, guarda un po', vediamo che palazzolo, se c'è palazzolo che mi devi dare ancora 1 milione, tu hai detto 1 milione franchi, che mi aveva bruciato non avevo negozio. C'era chi su palazzolo? Allora è l'occasione di bruciarlo giù, va. E sento, mi sapesse un cugino o un fratello, o i figlioli. Ah, stanno vendendo un monitor di computer, quello a tubo catodico della Philips, 25 euro, il monitor. Ma così, a parte che vivo, come si chiama, come si chiama, un, come stiamo messo in camera per mettere il computer? Con tua figlia, come si chiama? Vabbè, porta il computer comunque, il mobile, di quelli, quelli massicci, sennò ti spacca. E ricordo, un monitor, 25 euro. E nuovo cosa costa? 30. Ma cosa ne fai, ma per carità, ma così mi regalani. Troppo vecchia, sto vecchia, arrugginita. Graziano, beh, trovatelo hai. Qua c'è un monitor dell'Acer, 20 euro, ed è di, vediamo, di Sassari, venditore. Monitor Acer, 20 euro, pubblicato più di una settimana c'è. Sì, anche quello 20 euro. Vediamo Antonello cosa lo sta pensando. Avanti Antonello. Angelo Pinucci lo sta vendendo questo. Sì, aspetta se c'è Antonello. Antonello. Pomponio, ma ha attaccata la cannuccia, sì sì. Anche una bottiglia di birra si è sceso. E allora? Lei al telefono, sta telefonando la ragazza. E con la ragazza al telefono, per quello non parla. Luca, c'è una taglia piastrelle elettrico, nuovo nuovo, 70 euro, ti interessa? Una piastrella elettrica? Taglia piastrelle, tagli di mattoni mia, elettrico, c'è la, è una macchina a correnti, c'è il piano, la barra per la, spostarla per la misura, accendi il pulsante e tagli la mattonella. Ah, me ne posso nulla. Se vuoi tagliare una mattonella già c'ho la molettina col dischetto. E vabbè, ma questa è la più professionale, appoggi il gol trrr, e tagli. Sì, lo so, ma lei si mette a Bacchisio, a me no. E Bacchisio ce l'avrà. Giuro, me l'ho regalato tutto, farò vedere le più, ci vedessi verri. Luca, troppo l'ho usati, 45 anni ne ho fatto la schiena per terra, quei ferri quando andavo in garage mi facevano paura. Allora, dice, a te ci sei, porta del tira, ha fatto pulizia. Senti già, è lui. Sì, grazie, adesso qua, quelli che hanno regalato quella roba, ma che faccia da baitani. E infatti io non il regalo, mi la ginocchi sopra, mi lascio falso. Nuova, nuova la macchinetta, nuova mi, sì e no, l'ho usata 5-6 volte, e più c'ho anche il quello che fa i furi, quella manovella si attacca alla macchinetta. Quella ce l'ho ancora, lì c'è in all'armadio in garage, l'ho vista l'altro giorno, ancora è. Se viene qualcuno che gli serve gli regalo anche quella, non me ne posso proprio nulla. No, io non la regalo, innanzitutto può darsi che mi serve, infatti l'ho usata io, per l'ingresso, per il salone, in camera da letto che ho messo le mattonelle, e dunque non si sa mai, la buccia è sempre tratta. Grazie, ha finito che puoi travagliare, bisogna riposare, lasciare spazio ai giovani. Caspita, no, niente da fare. A Luca non serve perché Luca è un altro mestiere, dunque il tagliamattonelle non serve affatto perché il mestiere suo non ci serve. Altra roba non esibe, a lui gli serve roba di elettronica, guarda se gli puoi regalare qualcosa di elettronica invece. Aspetta, vado a vedere la stufa. Riprendi Luca, caduto sì. No, sto guardando il giornale. Sta guardando la stufa, ragazziano, la sta caricando. Ho abbassato a 3, vabbè, già ci sta bene, dai. A 3, non c'è caldo, non è troppo caldo, l'avevi a 5, vabbè, l'accensione la puoi fare veloce, poi c'è caldo. Sì, molto grande. Sono fatti i conti, ci sono una, due, tre camere, doppio servizio, la cucina, il soggiorno, il corridoio, cioè, non è grande. Sì, ha voglia grande, allora deve pompare quella stufa per scaldare un po'. Deve pompare, hai ragione, almeno un po' di temperatura bisogna dargli, lasciamo scalda. Se ho bisogno di attaccare la stufa e buh. No, noi ce l'abbiamo in soggiorno, ma scaldo tutto. Vabbè, l'appartamento mio è piccolino, sono 60 metri quadri, cioè sia una reggia. Ma infatti. Deve... Ma va già, va bene come è messa. Non ci possiamo lamentare, eh. Ma più che bene. Grazie, hanno caricato, hai. Ehi, aspetta che mi sto ritirando questa cosa. Riprendi. Già rientro subito. Mi non farassi, mi rimani a galla. Antonello Pomponio. Zio Pomponio. Pompucco. Rummido, eh. Siamo un po', Gio Mari, che faccenda, dormitoci. Gio Maria sta scaldando, ha attaccato la stufa, c'ha freddo, si è seduto vicino. Marino, non si sente, boh. E siamo arrivati. Ora di essere già a casa, Marino, ci sei? Nulla, appello sbagliato. Sono squallido, non l'ho sentito da una settimana. Forse si è mangiato Bobui. Dole, ha perso il motore. Ebbene, mor si sente. Al QTH piccolino. E chi Luca? Grazie, QTH piccolino, sto trasmettendo. Ah, ehi, già ti sento ugualmente. Perché ti devi comprare qualche portatile di PMR? Bacchi. Sì, devo comprare un portatile di PMR, lo devo regalare. Cioè Maria ne sta vendendo uno. Mi serve una coppia, non uno. Ah, una coppia. E allora lo sai dove li trovi anche? Da Conforama. Conforama? Ah. Perché ci sono lì? Sì, io li avevo visti, c'erano. Domani mi faccio una passeggiata. Vediamo un po' se ce li ha. E che non sia un prezzo esagerato, perché ordinandolo da fuori non vengono neanche 30 euro. Non penso, costano poco. E anche la Media Work sopra, città mercato, lì. Lì non ci hai guardato, lì c'erano una volta, accoppiati. No, non sono passato, no, dico, non niente, né la denaro. Non sono andato. Perché c'è un salto? Perché i cinesi non ne hanno. No, i cinesi non ne hanno, avevo chiesto io anche. Però se lo volevo me lo ordinavo, nel tatuare immaginamelo giù, me lo ordinai giù io. Scusa, no. Ma se lo ordina lui ci mangia, se invece lo ordini tu non lo fa pagare 20. Beh, è logico, no? Che ti credi che non macula, vuoi che mi raggiungi un mandato? Quando sono con gli attaccati mi raggiungi una due. Va? No, è su internet, si costa una fesseria questi portatili, hanno diminuito a vista d'occhio. Su internet ce ne sono di tutte le marche, tutti i prezzi, e qualsiasi e marca voi, di tutti i prezzi ce ne. Sì, ho visto sono tutti i prezzi, tutte le qualità, chi è più bello, chi è più brutto. BMR. Io c'ho una coppia di walkie-talkie conservati. I nuovi, ma li ho usati qualche volta, oggi parlavo con un ragazzino di Sant'Orsola, però poi li ho conservati. E il tocchito che ce l'avevo era un della Bruni, sembra, sai, non mi ricordo, aspetta, mi è rimasto il catalogo. Bruni era, li ho regalati, perché sentivo la mia di casa. Ehi, aspetta, mi sembra che ho sentito la voce di Giulio. Giulio! Ma non mi sento bene a voi. Stavo chiamando a Franco. Perché non mi sento bene? Ciao, grazie. Senti tutti quanti, tutti molti mari con chi tu BMR. Bassi e pieni di QRM. Franco, scusa un attimo, grazie. Franco, ci sei? No, non c'è, dai. Continuate pure, grazie, dai, intanto non mi sento bene, dunque no, alle volte mi sento, alle volte no. Ehi, ok, va bene, ciao, riprendi, Bacchizio. Come? Passa su 10. Passa ritorno, amore, tu. Ok, su 10. Monossido, dal monossido, capo l'uomo, e ne è successo. Eh? È vero. È vero. Nella borgata di Palmatola è successo, Luca. La donna è morta, intossicata dal monossido di carbonio. Andiamo a vedere. E allora, poverina. È vero. Poverina. Chi è la grazia? Ah? Vecchia allora. Ma una coppia era, è il marito di Muccio, da sì. Luca, ti vedo qua con gli occhiali grandi grandi. C'hai il 2, il cappello, e poi vedo anche la tua consorte, in cappello e in occhiali. E due cerchioni alla Recci. È vero. Eia. Ma su Facebook? Eia, su Facebook, mi adesso c'è la tua consorte, tu ne hai recina, ma ricercione la bicicletta tu. Ecco dove erano le ruote della bicicletta. Cammina tu rammichi su cerchioni. E se no non sono maturi gli occhiali, Luca. Aspetta che sto accordando il baracchino. La chitarra. Bacchi e bei. Io. Ma siamo noi in Italia. Ma è squalo, non hai sentito, graziato. Non si sa se è vivo, se è morto, se si è arricchito, l'hanno sgatturato, l'ho segnato a Londra. Ma è cosa è successo? A Bisumeo c'è stata un'invasione di pesci piranha e ci hanno mangiato lo squalo. Ah, così, e non avevamo più lo squalo. Ma manco i bimbi vanno dove chiamavi. No, aveva addirittura di canto è diventato un minuto, è una sua. No, è così, hai sentito, lo sapevamo. A costringi, mi aveva la recita da votare il fante. Tole. Oia! Morto è Luca, morto è Tole. Oh, grazie, un ciuppo bisogna fare. Pagando fare a nivicare a catturarlo a Tole, così l'avremmo sempre a portata di mano. E allora? No, bisognava punirli chi su braccialetto e poi ne ha ricarcerati chi so, in libera, in permesso, fuori. Così lo è rintracciabile. Ah, e dici che poi ne pure le cose, le lioni, alle volpi, fa individuare in caso una zona. E bisogna fare una cosa del genere, fermo la colletta e ve lo comparemmo. E allora? Così rispondi al messaggio. Poverino, beh, un veterinario ha fatto il prelievo e una lesione a questo cane. Era un cane femmo. Oh, Mario, già. Poi io. E nel giorno mi ha fatto il dottore chiamare, mi ha fatto dei selli. Beh, femmo, coralino. Poverino, un vaccino gli sta facendo. E sa, vedi? No, adesso mi sta un prelievo. Ma... E sa, vedi? E il prelievo gli sta facendo per le analisi del sangue. Gli è fallito, se va. Allora te ne prendi un litro. È una siringa normale. Là. Ah, beh, bravo, bravo. Oh, Mario. Nuovo rilievo. E si può buio. Vediamo un po'. Marino? No, Marino, leva, l'hai posto l'antenna e non lo trasmetti. Marino è tra l'ora dei pipistrelli. È quasi ora, Emmy. Sono subito 7:30, dunque è ora che Marino s'acciaria. Troppo tardi entra Marino la sera, ieri lo stesso, prendere già vendita in treni. E infatti, anche se ora è ora dei medicini e via dicendo, quasi tutti abbiamo un problema di cose, di medicine. E Beh, tra una cosa e l'altra si va in lutto, quello del giornale. E infatti, se non fate nulla poi. No, e poi passa pure l'ora della medicina che si siete pigliati a lutto, sei pigliato a lutto, no alle 9, capito? Quelle sono puntuali. Orario perfetto. Luca, ci sei ancora, se sei dormito. Luca, sei dormito, grazie. Oh Luca, ma caduto sei? Dormito sì. Cosa stai facendo? Ah, dormito sì. E io? E leva sottimenti, grazie, nessuno fa vita, sottimenti leva, non c'è sinfondia. A chi leva ne fa la mia, ne un cavo ne fa la. Preda piedi va, in te. Senti. Male però, male grazie a basso. Non mi si abbassa, c'è lo sfondo, il mare, il delfino e a sottofondo c'è questa musica. Allora che coso? Sono squalo per i finghivi. E allora, sto guardando se è lui, no, questo è il cugino del vessere. Sole, affacciati alla finestra. C'è la zia adesso, mi qua, con quattro pinne. Ok, di lusso. E così, grazie, non so se era nessuno che ha detto. Gio Maria invece è attaccata alla stufa, il Dastro è attaccata al termosifone e via discorrendo. Ci saranno una ventina di ragazze nel bagnasciuga, tutte ballando al mare, belle belle. Belle belle solo, dopo catturane qualche d'una, grazie. Capita, tutte in costume, bello è, un bel residente questo qua, questo è fuori però, non è in Sardegna. Ricordo nelle isole che sono calde, in occhi se fredda va. E chi viene? Malicca, Malicca e Ciavide, Resort Abu Obaba, cinesi in Africa le massi. Sì, io per caso. In Honduras sono andati a fare l'isola dei famosi. Eia, poverini, no, che hanno investito un canguro e mi sa che è morto. Avanti alle vicistelle e ci avvini. C'ha il figlio piccolino in pancia, adesso glielo leva. E quella sacca che c'ha, che c'ha nei canguri. Non lo faccio. Non lo vedo. Nel marsupio c'era il puffetto, il canguro piccolino, e la madre era morta, andava alla strada, investita. A me mi sembrano sfogliata, non hanno investita, no. È sfogliata l'hanno, grazie. E meno male non è morto il canguro piccolino, e allora stava levando una signora lì che l'ha soccorso. E la vecchia invece è morta, però così è. Il canguro, la madre è morta, il pupetto no, il neonato là, canguretto, ce l'aveva all'interno del marsupio. Sì, lui è. La scena sono sui bambini. E stasera ho visto in TV quello che stava facendo lo scavo in Spagna per portare fuori quel bambino dentro il pozzo. Non ci sono arrivati ancora a salvarlo. Aveva una fotografia di quegli indios che in America costruiscono quei grattacieli alti alti, tutti busati in fila, innanzi a un trappo d'acciaio, il riposino si soffrendi. Cugliamari! Erano a 50-60 metri d'altezza. Signori, se si vede nei barazzi sotto, minuti e minuti. Vediamo, erano 3 chilometri soli. 50-60 metri siamo già alti, Il grattacielo nostro è 15 metri o 25 metri, tanto è. Se questo è così alto, ci vuole un'ora a salire all'ultimo piano. Ma i fritti meritano un po' di riposo. È un peruliato. Non va vento però, è caldo la lì. No, si vede tutto rebbioso all'altezza dove sono loro. Che pittina. Questo indio, li fanno loro questi grattacieli così. Io sono a livello delle nuvole, se sono arrivato, a livello delle nuvole, l'ho fatto in ferro. E chi mi si passa marcito, ne fa di poco e di no. Però lo sai che col calore l'acciaio si fonde. Le torri gemelli perché ne sono crollati, perché col calore del fuoco, anche se era tutta in acciaio la struttura, si è sciolta e ne farà da terra. Hai visto le torri gemelli quante si sono schiarate? Si sono sciolti. Bisogna vedere che temperatura ha raggiunto a sciogliere un ferro. La temperatura deve essere molto alta, non so a quanto fonde il ferro, non ne ho idea. Però la temperatura era molto alta, a piegarsi così, non è che si è sciolto, si sono piegate, le trave si sono piegate ed è caduto giù. Non l'hai mai vista la fotografia delle torri gemelli quando si sono frabbinati tutti e tutti? Si sono trovati a chi si è caduto lo ferro, una volta lo ferro è caldo, è muto, e chi da sopra vi ha visto, e per forza si piacerà. Dunque non c'è niente di durevole, è visto. Ho una cosa o l'altra, non dura nulla. Io lo porto Morandi, è andato in calcestruzzo e ne farà trovatessi. Ma, uia, tutti, Ci fece per cadere i cinesi, l'abbiamo fatto in canna d'India e non ne ha caciuto. E allora? E mi sono resistenti un bene. E sono resistenti, fatti in canna d'India. Fatti nei ponti, capito, al quarto, al quinto piano, sotto quei che ganni e che marasucci. E in India, io ho visto ponti nei documentari, tutti fatti di canna di bambù e sopra mi baciava lì. Con i carretti, i carichi, ma stesse di ganni lunghe, tutte belle selezionate, ma quintali e quintali, ma come bello li cucava su monte. Ma dopo noi ci ho dato, e lì ha dovuto con un corso di canna d'India, con i fogli di canna d'India travagliati, e lì ha durato quanto fatto. E per le fasi neanche, per i travagliani, per i carriureggiani, i fasini, noi lo fanno in ferro e i cacci. Perché loro lo sanno trattare, fanno certe legature che durano un'eternità, quelle legature che fanno loro. Tu prendi, e vedi le liane quanto sono dure, che ritrattano le scimmie da albero a albero. E pure l'uomo la tratta, chissà, in India, le liane, quello è duro che la palla, amico, il materiale, c'è un tronco di così. Io sei tutto come fasini, tutto questi, e ma va, mi vanno in Sardegna pure piantagione di canne d'India, bisogna vedere cosa esce a fura. Io ce l'ho un paio di cannette, di quelle di bambù, Sono belle resistenti, mi sono tutti che la palla, in campagna lo stesso, per cucciurare l'alpoli. L'avevo comparato, sì, l'avevo comparato, carne di bambù. E vi lascio anni e anni e anni, e funzionano sempre, mai si sono truncati. Io sono bolognese, 100 kg da fischiare. Ma Luca è caduto, io sospendo tutto e buonanotte a tutti. Io giro bandiera, me ne passo in QRT e via dicendo. Ciao, grazie, ci sentiamo domani, grazie della chiacchierata, delle quattro chiacchiere che abbiamo fatto, abbiamo passato un quarto d'ora insieme. Saluto alla signora, saluto anche a Luca e company, anche gli altri che sono all'ascolto. Ma Chisio, vi saluto passando in QRT. Ciao Graziano, riprendi. Ciao Bacchisio, alla prossima se coincide. Ciao Luca, se c'è l'ascolto, ciao, chi c'è e chi non c'è. A domani se coincide, ciao. Ciao, grazie, ci sentiamo domani, saluto neanche a Pacchisio, io ero al telefono, quindi ho dovuto mollare tutto, vi saluto tutti e due, là. Ciao Antone, ciao, a domani. Bombetta! No, ero al telefono, hai capito, quindi non sono caduto dalla pompetta. Va bene, ciao Antone, buon proseguimento, a domani se coincide, bella me, ciao, buonanotte e buona cena. Ehi, altrettanto, ciao anche a Bacchisio, buona cena anche a lui, ci sentiamo domani. Ciao Antonio, ci sentiamo domani, dai. A domani, tutto va bene, ciao, buonanotte. Guffo!